sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Allora, parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao, Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Amici miei, siamo al flop. A proposito di barconi, di Libia, di immigrazione, eccetera, eccetera, quelli di Forza Italia non possono sentirsi meno di quelli della Lega, no? Perché ormai vince questa linea, la linea politica di dire basta barconi, respingiamo i barconi, eccetera, eccetera. Allora, senti uno di solito moderato come Paolo Romani, lo sai il signor Paolo Romani, no? Linea diretta con Arcore, grandi rapporti con Berlusconi, eccetera, eccetera. Paolo Romani, se non fosse Paolo Romani, Forza Italia... sembrerebbe Salvini, Lutwak, che so, Fedriga, quelli che vedete di solito in televisione nei talk show, signor Fedriga, sempre in televisione. Signor Fedriga, signor Fedriga. Romani, Lutwak. Romani. Uno dei filoni dove la ISIS o le milizie guadagnano di più è il trasporto di esseri umani. Se interrompiamo immediatamente questa possibilità bombardando, colpendo, sì, mandando... Sì, però quello c'era anche prima che arrivasse l'ISIS, Non sì, è che certo, è arrivato adesso. Sì, ma è la foto, quindi... ma l'ISIS non è, da che vedere sono... se poi riguarda non è che l'ISIS sono persone per bene o sì, che svendono bandiere nere, adesso... sono dei criminali abituati ad attività certo, criminali. Però questo... Colpire i barconi prima che i migranti salgano, ma io lo dico da una vita che bisogna fare così, cioè lo dico da una vita, però questi qua di Forza Italia adesso lo dicono perché la Lega sostiene questa cosa, dunque per stare dietro... Sì. Che vuol dire poi un intervento? Che a quel punto bombardiamo pure quei poveretti che ci devono salire. Guarda, no, prima che salgano. Prima cioè, nel senso, che salgano, come si distingue? Colpire tutte le visto barche, come li tengono in magazzini, in vicino alla riva. Prima che salgano. Beh, ma è l'unica soluzione, evidente. Sì, no? bravo. È l'unica soluzione. Prima che sa, cosa vuol dire prima che sai? Coi droni. Con i droni. Allora, mentre tu continui a parlare di questa roba che è fondamentale e importante, sì, perché l'ISIS sì, è un pericolo che succede, vero. Che succede? Oggi a Roma ci sono 1000 immigrati alti, biondi. No, non sono immigrati, sono. Stai buono, alti, sì, biondi, cristiani, olandesi, ubriachi fino al midollo, sì, che hanno immigrati, arrivati qui con gli aerei, che hanno messo a ferro e fuoco non la città di Roma. Sono entrati liberamente. Immigrati alti, biondi, cristiani, mai musulmani, ubriachi fino al midollo, devastato mezza città, bloccato la mia valigia all'aeroporto di Fiumicino. Distrutto no, le statue. Soprattutto bloccato la mia valigia a Fiumicino. Sti cazzi, ci ho messo un'ora per arrivare al lavoro. Distrutto una statua e poi scortati dalla polizia anziché nel paesaccio loro, vengono scortati allo stadio per vedere una stracazzo di partita. Mille immigrati, alti, biondi, occhi azzurri, olandesi. Cristiani, olandesi, mai musulmani, mille immigrati hanno oggi messo a ferro e fuoco la città. Non rompetemi più i coglioni con quelli questo? Che arrivano coi ma barconi. Ma che c'entra? Fine della discussione. Chiusa la Claire, 18:38, linea Barisoni, che è pure arrivato in ritardo oggi al Focus Economia. Arrivederci. Io no, mi ma come qua. Arrivederci? No, che... io mi fermo qua. Ma no, mi ma sono stai. Mi avete stufato tutti. Tu, Riccardo Poli, tutti. Oggi ci sono mille. Pochi centapoli, poverino, non si sa. Ma oggi ci sono mille immigrati. Sì. Ripeto, mille. Alti, biondi, con gli occhi azzurri. Vabbè, abbiamo capito, sì, abbiamo capito. E cristiani. Allora, io dico solo una cosa: è una vergogna quello che è successo oggi a Roma con i tifosi olandesi che hanno devastato mezza città. Ma io dico, come si fa a fare arrivare a Piazza di Spagna a Roma? Appunto. A Piazza di Spagna a Roma, questa è la sicurezza italiana. Appunto. Mille persone ubriache, sì. Bisogna impedire Appunto. Che accada tutto questo. La sicurezza dov'era? No. La prevenzione dov'era? La polizia mentre, dov'era? Mentre a Lampedusa, da dove arrivo, ci sono 1100 disperati niente, dai, rinchiusi dentro un centro che non alzano una paglia. E tu dopo dici? Aver fatto viaggi della speranza, i veri immigrati che non sono immigrati da tenere a bada sono gli olandesi. Sono gli olandesi. Lo dico con Vabbè. Più pacatezza. No, ma per carità, no, ma può essere anche una provocazione. È una provocazione intelligente, te lo concedo. È una provocazione intelligente. Oh, arriva il Claudio. È una provocazione intelligente. Arriva lui che fa l'octroyer, la concessione. La octroyer. No, octroyer no? È la costituzione octroyer. Non fare sì, troppo esatto, il filosofo, dai tu. È la costituzione concessa. Non è il caso. Lui la concede da Non è il caso. Non è il caso. Non è il caso. Renzi se la prende ancora con i talk show. Io voglio dire, il presidente del consiglio che parla di talk show mi dà fastidio. Mi dà fisicamente fastidio. Dovrebbe stare zitto e non parlare di talk show. Non gliene deve fregare niente, anche perché lui è presente in ogni talk show. Stasera andrà anche da Virus, da Porro. Vabbè. Cioè, non deve parlare di quello che succede nei talk show. I talk show possono fare schifo, possono parlare alla pancia della gente, non ce ne frega nulla. Il presidente del consiglio non parli mai dei talk show, per favore. Poi, se vuole parlare, parli, chi se ne frega. Circondati intorno a noi da un'immagine del nostro paese che è un'immagine di un paese dove l'industria che qualcuno pensa che funzioni è l'industria della lagna, del rammarico. Sono 10 anni che i talk show serali fanno sempre lo stesso show, cervelli all'estero, cioè, lasciano da noi soltanto i pancreas e i fegati, sembra, no? Cioè, tutti i cervelli sono tutti all'estero. L'industria della lagna, ma si sa che i talk show si basano anche sulla lagna, ma non scopriamo l'acqua calda, va bene. Allora, abbiamo già un ospite? Bene. Pronto? Abbiamo un ospite pronto. Oh, i grandi giornali non parlano della vicenda Soria, eh. Quando interessa qualcuno di loro, Augias per Repubblica, El Can per il Corriere della Sera, non parlano di questa vicenda. Quando si trattava di sputtanare altre persone perché qualcuno diceva ho dato soldi in nero, ho pagato le mignotte, eccetera eccetera, erano tutti pronti a scrivere articolesso, no, eccetera ma che eccetera. Senso non nel caso di Soria nessuno parla, tutti zitti. Boh, io ho letto perché veramente. Ognuno ha i suoi amici da proteggere, questa è la realtà. La realtà è che c'è ognuno ha i suoi amici da proteggere. La notizia io l'ho letta come ma te, sì, la notizia, come... sì, certo, dopo oggi è sparito tutto, dai su. Quando c'è di mezzo quando ci sono di mezzo gli amici degli amici nessuno scrive niente, dai, questa è Ancelotti attaccato per questa frase in difesa di Sacchi, molti nemici molto onore, lui dice Giulio Cesare diceva. No, lui dice Giulio Cesare, oggi ha replicato, sentiamo. Saluto Arrigo. Arrigo, un saluto. Anche Alessio. Molti nemici, molto onore. Ti abbraccio. Anche ad Alessio. Molti nemici, molto onore. Sì, l'abbiamo sentito. Anche Alessio, digli che qualcosa. Ti abbraccio. Qualcuno ha detto fascista sulla rete, la famosa rete. Giampiero Mughini con noi. Giampiero, come stai? Eccoci, amici carissimi. Eccoci. Come va? Ciao, come va? Come va? Come va? Alla mia età è già tanto se respiro. No, no, beh, non esagerare adesso, cioè, ogni volta sei sempre informissima, sempre con vestiti pazzeschi, sempre con... Ma io infatti dico quella sciocchezza perché poi tu mi possa dire tutto ciò. Senti una cosa, hanno dato ad Ancelotti del fascista per avere difeso Sacchi con quella frase. Ma, molti nemici, molto... La famosa rete. La famosa rete, la rete, caro. Io volevo la fare rete una... è una parola che in mia presenza meno la nomini meglio. È che io voglio sapere sapere da cosa, e la cosa mi ispira, Mughini, questa cosa sulla rete. Cioè, come consideri tu il web, diciamola tutta, questa evoluzione? Beh, un circo formidabile per cose utili, interessanti, stuzzicanti, però... eccetera, e per una sequela di imbecilli come non si era mai vista nella storia dell'Occidente. Cioè, sulla rete ci sono soprattutto degli imbecilli, soprattutto diciamo che il cretino ha sulla rete una facilità di accesso che non aveva prima su altri strumenti di comunicazione. Su un giornale non è che non ci fossero cretini, però non è che irrompevano a valanga, ma anche la televisione piena zeppa di cretini, però tutto sommato un certo governo del palinsesto c'era, la rete senza governo. Dunque si stava peggio, si stava meglio quando si stava peggio? No, adesso non diciamo queste che sono delle ovvietà che non servono. No, che ne so. Certo magari... è che il cretino non è mai stato in prima linea, in prima linea, in un certo senso, non dico venerato. Cioè, diamo troppa retta ai cretini, diamo troppa retta ai cretini che si esprimono su internet. Tu ma dici. Sì, e poi sai tutte queste cose, quello lì ha 150.000 amici. Sì. Io nella mia vita in tutto avrò avuto una decina di amici, e che fatica tenere. 150.000 followers. Ma non metti mai tu il like? No, il like, lui non sa nemmeno cos'è, non sa nulla. Il like lo metti? Ma che like? Non sa che cos'è? Vabbè. Io so che cos'è, ma non ho mai premuto un like nella mia vita. Senti, molti nemici, molto onore. È una frase fascista, secondo te? Quella no, non è una frase fascista. Ancelotti fa benissimo a difendere Sacchi, eccetera. È ignobile questo tentativo di appendere ad una frase un bravo uomo, un galantuomo, eccetera, come Arrigo Sacchi, che ha detto una frase che per lui voleva dire qualche cosa che certo non può essere sospettata minimamente. Ma poi questi termini razzismo eccetera, ma no. Sono termini talmente insulsi. Perché? Da essere divenuti insopportabili. Perché dici tu, io non dico che farei il razzista per distinguere. Beh sì, io qualche ma volta insomma certo qualche tentazione ce l'avrei. Io ho la tentazione per esempio di dire sempre negri. Dire sempre negro, ma non in senso dispregiativo. Non mi piace proprio, non mi piace fonicamente. Neri per me va benissimo. Però scusami Giampiero, allora quando uno dice come Sacchi ci sono troppe persone di colore, dice una cazzata, perché non c'entra niente colore o non colore. No, cioè... ma non c'entra niente. Ma sì, che abbia detto una sciocchezza è talmente evidente. Ma si può appendere all'amo un uomo per aver detto una sciocchezza? E soprattutto tirarci dietro questa tiritera sul razzismo, eccetera. È una tiritera insopportabile. Cerchiamo di essere adulti nella sostanza delle cose. Senti, i leghisti dicono, parlando proprio di una cosa completamente diversa, che bisogna prendere i barconi e affondarli vuoti, naturalmente, dicono, e non soccorrere più le persone in mare. Ora io ti faccio una domanda molto semplice: se tu fossi di fronte a una scelta, no? Affidare il paese a Salvini oppure alla persona più odiata da Salvini, la signora Fornero, a chi l'affideresti il paese? Scusa, questa domanda fatta a me è proprio... No, beh, la gente non è tenuta a sapere io quello. Io non odio affatto la signora Fornero. Tra Salvini e Fornero è come se tu mi dicessi, se c'è una gara tra uno della seconda elementare e uno specializzato in una qualche materia universitaria. Salvini per me non fa competizione con nessuno. Cioè è proprio un cretino, secondo te? Io non ho usato questo termine, vabbè, perché poi parlare male degli assenti è troppo facile. Un ignorante. Beh, insomma, non mi pare che sia uno di elevate. Cioè, è una roba che fa paura, ma fanno paura quelli che gli danno il voto, fanno paura quelli che accendono la televisione. Lui ormai, tu hai detto Renzi, è una volta sì e l'altra pure. Sì, lui sempre, sì. Salvini forse ancora di più. Sì, Salvini sempre, anche sì. Perché lui non ha bisogno di mettersi molto, gli basta una camiciola, una magliettina per andare lì. Cioè esteticamente ti fa schifo la magliettina fuori Renzi dopo che Renzi a casa, dopo che Renzi aveva ottenuto una assonante vittoria politica facendo eleggere il suo candidato alla presidenza della Repubblica, sono cose farsesche. Ma senti, ma esteticamente quando lo vedi con quelle magliette là ti fa orrore, diciamo. Diciamo che non è il mio tipo. Non è il tuo non tipo. Non è proprio il mio tipo. Let's go! buona zanzara, buona zanzara a tutti. Let's go! A proposito dei tuoi amici migranti, Parenzo, senti che ha detto Iva Zanicchi questa mattina ad Agorà. Ha detto: l'altro giorno c'era un migrante che si avvicinava, ho incrociato un migrante. Poi che vuol dire un migrante? Ho incrociato migrante, uno. Colui che migra, vuol no, dire. Ma che ne sa che lei che era un migrante? Poteva essere pure uno, un disgraziato alla stazione, non so dove. Sentiamo Iva, va. Alla mia età posso fare ciò che voglio. Io vado alla stazione a Milano anche di notte. Sì. L'altra sera sono arrivata, mi fermo sul binario, non c'è la persona che mi deve venire a prendere. Beh, col mio beauty case che è un'arma. E allora si avvicina uno che non so di che nazionalità, non me ne frega niente, aveva lì i vasettoni, ma anche gli italiani possono però avere. Non rileva, dai. Posso essere un po' volgare anche se al mattino. Si poco. Avvicina lì. Io sento un po' di una leggera angoscia. Allora dico forte, mi giro, non lo guardo e dico: scusa, se ti avvicini con questo beauty case rigido ti trituro le palle. Beh, è andato, ma non sempre una povera donna, io posso permettermelo, però ragazzi c'è da aver paura. Capito? Secca, asciutta. Poco signorile, ma insomma. Giampiero, sei stato in giro per Roma oggi? Forse no, non hai visto il casino che hanno fatto sti olandesi? No, ho sentito appunto i malintenzionati olandesi, uno si immagina Olanda, patria della pittura e così via, invece beh, no, naturalmente i manigoldi, gli ubriachi e i malintenzionati, ahimè, ci sono davvero. Ma è bello che poi li scortiamo allo stadio, li scortiamo a vedere la partita questi qua. Prima... Ma scortarli a vedere la partita è sacrosanto, così che... gli impedisci di fare delle puttane. Ma no, dovevano mettere su sono stati scortati. Giambiero, dovevano metterli dopo aver devastato Roma su un bel furgoncino blindato. Ah, tu dicevi post factum. Post factum. David, tu sai che la responsabilità individuale non puoi attribuire a tutti e mille. È vero. Ma guarda che hanno sfasciato anche delle hanno certo, sfasciato anche dei pezzi di statue lì a Piazza di Spagna, una cosa pazzesca. Io veramente sì. Trovo incredibile. Ma io spero che alcuni siano stati catturati. È quello di sì, presi e faremo come i nostri Marò. Come i nostri Marò, noi glieli restituiamo più, no? Questo magari fosse possibile. Senti una cosa, ma la vicenda di Soria, no? Sì. Tu non ci sei dentro, no? Per carità di Dio. Sì. Che ne so, Grinzane Cavour, magari pure te hai preso i soldi da Grinzane. Io non sapevo neppure che esistesse questa parte qua. Io sai, vabbè, non mi fare parlare dei premi. Perché se no è possibile che perda la mia naturale eleganza. No, e perdiamola, facciamola. Premi letterari sono una cosa abitualmente indecente, un dare e avere tra politica, gruppi dirigenti, gruppi editoriali, case, eccetera, e intellettuali di pronto utilizzo. Il Grinzane era così, quindi correvano soldi a tempesta, tutti applaudivano, tutti erano contenti, perché non ricordo un solo articolo. Bravo, che sì, dicesse, sì. Ma neppure mezzo, un corsivo, mai. Quindi tutti erano contenti, tutti erano a cena, sì. Tutti erano in nota spese e questa è l'Italia. Sì, no, ma la cosa incredibile è che adesso giù al povero Soria, che per carità avrà una condanna, eccetera, parla dopo sei anni, però quando si è trattato di altri, le accuse... Dice, se le accuse erano indirizzate a Minzolini, sulla Repubblica c'era la prima pagina. Questo non adesso, siccome il presidente per un periodo è stato pure Ezio Mauro del premio Grinzane, siccome c'è di mezzo Augias, Repubblica, ma anche altri giornali per il CAN, per carità, tutti zitti. Ben inteso, Beppe. Ma bisogna verificare tutto. Ma sì, ma certo. Ho capito, però capisci che... Me lo spiega a me? No, pensi che io non lo capisca da solo? Cioè, altre persone di solito venivano triturate. No, qui ma invece... io su questo dissento dalla vostra importante analisi. Un po' dissento, sì. Perché sì. Infatti sono un po' diversi qui. Ma tu hai preso intercettazioni, hai preso pezzi di intercettazioni, ti sei scagliato contro chiunque. No, dai, giustamente. Un momento. Dopo sei... Hai dato due informazioni giuste. Ha parlato dopo sei anni, allora? Ha parlato dopo sei anni e dopo una condanna in primo grado. E allora? Se questo signore, ma grazie a Dio, ha detto anche ieri di non conoscermi, perché io tremo, magari di questo dice che Parenzo è venuto al premio, non so neanche che cazzo sia allora? Io quel premio, per figurati se mi invitano a un premio letterario, ma può dire qualunque cosa dopo sei anni e dopo una condanna in primo grado, cioè i fatti sono questi qua, quindi sto signore cuore può lanciare schizzi di fango nei confronti di chiunque con cui lui ha avuto rapporti. No, questa è la prudenza. No, è più complicato di così, David. Certamente le parole pronunciate da Soria non sono una sentenza della Corte di Cassazione, questo è appunto talmente evidente. No, ma è... Detto questo, l'argomento è saporito però, l'argomento è saporito, perché attiene a quello che dicevo prima, la combutta, non dirò mafiosa che è un termine eccessivo, tra certi intellettuali, certi signori che maneggiano il denaro, politici che fanno promozione del proprio ambiente, della propria città, e quindi sarebbe interessante sapere se sì o no tutto questo denaro in nero sia, diciamo, scorso via. Però è vero che in questi casi anche a te spesso qualcuno il denaro in nero l'avrà offerto, cioè o ti diamo questo. Ti dico subito, in 30 anni ti faccio subito l'elenco. Dunque, una volta un circolo culturale che non aveva neppure la partita IVA, quindi non poteva, allora mi hanno dato 1,5 milioni in nero. Un'altra volta una libreria che ha inaugurato il suo cammino commerciale, eccetera, eccetera, poveracci, mi hanno dato, mi pare, 1,500 euro in nero, e secondo me c'è stata una terza volta che non ricordo. Vada bene, Peppino. Tutto prescritto, bene, tutto Peppino. Prescritto. Io non ho mai chiesto un pagamento in nero nella mia vita. Però mai ti, chiesto, ti hanno dato se questi soldi. Per caso, in questi casi, due o tre in 30 anni, li ho presi naturalmente senza batter ciglio. Li hai presi? Sarà tutto prescritto naturalmente, immagino. Credo. Penso di sì, una cosa di 20 anni fa credo che sia prescritta, ma se lo Stato vuole, l'anno scorso gli avrò dato 80.000 euro, gli avrò altri 200-300 per integrare. Vabbè. Bene, ciao Giampiero, ciao, presto, ciao. Mamma mia, che orrori, che orrori. Ragazzi, questa sera sulle Iene, questa sera sulle Iene, 21 e 10. Grande servizio sulla Zanzara, ci ha provocato un po' di problemi questa vicenda. Gli amici delle Iene l'hanno ricostruito per noi con Enrico Lucci. Cosa succederà? Vi ricordate la telefonata del famoso Berry? Che stai facendo, Parenzo? Che sente un rumore tremendo. Che stai facendo? No, sto preparando le armi per tornare a casa e sfidare gli amici olandesi. Ma gli amici olandesi sono già dentro lo stadio. Allora, servizio in galera devono stare. Servizio, quello non c'è dubbio. Servizio in un centro di in un centro di identificazione. Come sei così duro con gli olandesi e non sei così duro con i rom? Mio, con i signori rom. Bianchi, cristiani, ubriachi fino al midollo sbarcano a Roma, devastano la città, scortati sì, ma dalla polizia, essere duro, vanno a vedere la partita. Ma dai. Ma che bel ambiente. Le Iene sul nostro amico Berry da Salerno. E dillo che sono dei criminali quelli che hanno ammazzato quelli là in Francia oggi, dillo! Vediamo di persona a prendere dentro del vostro ufficio, nelle vostre camere da letto, ci portiamo fuori e ci spariamo in testa. Arriverà pure per te. Immediatamente denunciato, si scopre che l'autore della telefonata è un brasiliano che vive in Campania, dove fa l'imbianchino, e il cuoco a tempo perso in un locale dove prepara. Sei Berry. Derry. La carne. State buono con sto cortello. Allo spiedo. Cioè, quello che ci ha telefonato è un brasiliano, Berry da Salerno, un brasiliano, fa il carpentiere e si difende davanti ad Enrico Lucci. Vedremo stasera. Contro Antonio Razzi. Antonio Razzi che peraltro ha presentato in queste ore, caro Parenzo, un capolavoro, perché devo dire che è meraviglioso questo video. Non so se l'hai visto te il video di Razzi, sì, e l'ho della visto, canzone su Repubblica. Ma dove sì, hai visto? Ma non hai visto niente. Come non è sulla home page ma di hai Repubblica visto? No, del dentro Corriere. cosa c'è dentro? Non ma sai cosa c'è, non lo sai, non sai. È il video in cui canta, un video musicale, sì, ha fatto, si sua, mette a ballare sul sua ponte di Pescara, non sai niente. Lo tratta così Di Pietro, tu guardi le cose e poi non vai dentro, Di Pietro. Sì, eh, ma adesso non è, voglio dire, dai, no, su, è, dai. Non è una grande inchiesta, eh. Io ho preso un operaio che 40 anni che faceva l'operaio. Allora io ho pensato, prendo un operaio emigrante che rappresenta per l'Italia la storia italiana nel mondo degli emigranti, lo porto in Italia e si venda l'anima a Berlusconi. Ma benedetto il Signore, datemi solidarietà, non offendetemi pure. Però il mea culpa in quanto capo del partito... La responsabilità è chiara di chi sbaglia. Detto questo però, smettiamoli, ma proprio lei di Pietro, ma che vi credete? Che vi credete? Che sono un Gesù Cristo io? No. Beh, allora non mi trattate come... L'abbiamo creduto. Perché cioè, è offensivo. Il principio. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Quello che io faccio, non ho mai pentito. Questo non credo. Sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Caro amico, te lo dico da amico, e fatti i cazzi tuoi. Fammi cantare. Cioè il vero la vera questione, la vera questione di fondo è che a Di Pietro rode il culo che uno che lui ha candidato non voleva candidare e che è stato eletto in Svizzera per due volte con le preferenze, la seconda volta Di Pietro manco gli rivolgeva la parola perché era passato lui e non un amico di Di Pietro. Di Pietro diventa pazzo, questo è diventato famoso, viene imitato, lui è ridotto come è ridotto perché ha finito la sua carriera politica in sostanza, signor Di Pietro, e dunque diventa pazzo. Ma non è un bel ambiente, ma, è un bel paese, ambiente. Ma qual è il problema se uno fa un video musicale? Uno non può fare un video musicale. Non è un video musicale, giustamente lui ha, come dire, fatto ma giustamente di che cosa? Una opportunità, una cosa, un passaggio di casacca che ha fatto su. Ha fatto un brand di se stesso. Ha candidato cani e porci. Di Pietro ancora viene qui a parlare, a cercare di giustificarsi. Ha candidato, colpa, ha candidato di... chiunque ha candidato. L'hai appena detto. Di Pietro è fuori dal Parlamento. Il suo marito non esiste più, eppure lo attacchi. Ma no, qui ma voglio dire, sei di fronte perché? A un simpatico senatore della Repubblica, furbotto, che si decanta, che canta anche le sue furbizie vantandosene. Beh, l'arci italiano proprio, eh. Ti piace così? E fammi il furbetto. Sognare. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. La Grecia chiede all'Europa la proroga di 6 mesi degli aiuti. Bruxelles apre l'accordo, ma il governo tedesco si divide sul sì. Incertezza sull'Eurogruppo di domani. L'OCSE, bene le riforme ma attuarle presto. Padoan, da quella del lavoro beneficio gigantesco, ma l'Istat, più poveri e giovani che non studiano né lavorano, peggio di noi solo la Grecia. Vertice alla Casa Bianca con i leader di 60 paesi. Obama, combattiamo il terrore, non l'Islam. Sirte, alcune zone ancora in mano all'ISIS. Dopo i disordini della notte, i tifosi olandesi scatenano la guerriglia in pieno centro a Roma. Piazza di Spagna devastata, danneggiata la barcaccia, 23 arrestati. Pensione sempre più alta in Forza Italia, commissariato il partito in Puglia, Fitto, vogliono epurarci ma non ce ne andiamo, caos alleanze per le elezioni. L'ultimo saluto alla piccola Nicole, morta a Catania e rifiutata da 3 ospedali, emerge il sospetto che la piccola fosse nata già morta, si aspettano ulteriori esami. Gino Paoli, indagato per evasione fiscale, avrebbe trasferito in Svizzera 2 milioni perquisita l'abitazione del cantautore genovese che è anche presidente della SIAE. Sentito Gino Paoli, no? Allora, Gino Paoli, che è stato in Parlamento per il Partito Comunista, vabbè, un mostro. Beh, questo bisogna dire perché, non bisogna ricordarlo che è stato in Parlamento per il Partito Comunista. È stato in Parlamento per il Partito come Comunista. Indipendente. Vabbè, ma sempre il Partito Comunista era. Signor Gino Paoli, che è presidente in questo momento della. Non c'entra niente, va bene. E a me, certo che non c'entra che è stato comunista, non c'è dubbio che non c'entra. Attualmente è presidente della SIAE, viene accusato di evasione fiscale. 2 milioni all'estero in Svizzera. In Svizzera. È accusata anche la moglie, sarebbe stato aiutato dal suo commercialista a portare i soldi svizzeri, ovviamente tutti negano, no? Il commercialista dice che non l'ha aiutato per niente. Abbiamo intercettato il signor Gino Paoli oggi pomeriggio, il quale ovviamente non dice nulla. Però sentite la voce, che è interessante. Paoli, sono Parenzo, Radio 24. Volevo chiedere, si sente trattato come un criminale in tutta sta vicenda? Come? No, volevo capire se si è sentito un po' trattato come un criminale, vista tutta sta vicenda, la Guardia di Finanza, le perquisizioni, le cose. Cioè, uno come lei, un cantautore, un... Beh, ma a che proposito? Non ho capito. No, a proposito della vicenda della supposta evasione fiscale, delle indagini, no, che ci sono state, che quello ci sono. Quello si vedrà poi. Ma come si è sentito, non... però? Cioè, penso che potrò chiarire tutto e che la giustizia farà il suo corso, tutto lì, punto, basta. Tutto sì, qua. Ma questa cosa qui della finanza in casa, le contestano 2 milioni di euro in Svizzera, cioè come si sente? Lei è un simbolo della canzone italiana? Mi dispiace, ma io non voglio commentare assolutamente questa cosa. Ma ce l'ha il conto in Svizzera, però? Ce l'hai il conto in Svizzera? Tu. Dario da Roma. Fortissimo questo del conto in Svizzera. Comunque, no, volevo solo... Adesso qualcuno mi deve spiegare però il motivo. Per carità, è legittimo portare i soldi in Svizzera, no? Cioè, se uno è nella legge, nella legalità, uno può portare anche i soldi in Svizzera, pur non essendo residente in Svizzera. Sicuramente ci saranno dei modi. Perché il signor Gino Paoli ha dei conti in Svizzera? È curiosa come cosa. Io non voglio attaccare nessuno, magari è tutto legale, non è vero che ha portato 2 milioni all'estero, eccetera, eccetera. È un'icona anche della sinistra, dell'Italia, le canzoni. No, un'icona della sinistra, non so. Beh, anche, è un'icona, sì, anche... nazionale popolare. Vabbè, comunque un'icona nazionale popolare. Non bello, mi risulta, sì, che abbia... Sì, sì, d'accordo, benissimo. No, ma questo lo, no, dico solo, va bene, però, insomma, certamente... I ladri stanno a destra e a sinistra, non, c'è non dubbio. C'entra niente questo. Allora, voglio dire, perché hai i conti in Svizzera? Cioè, questo è il punto. Perché qualcuno ti... Poi sentiremo un'altra persona più avanti che ha patteggiato una condanna per evasione fiscale e che invece è molto più alla mano, anche perché ha concluso la sua vicenda con la giustizia. Dario, allora? Ciao, allora, io volevo fare una premessa. Non sono quasi mai d'accordo con quello che dice Parenzo. Però devo dire una cosa, io ieri sera mi trovavo a Campo dei Fiori, esattamente andavo a teatro, erano circa le 21. Mi sono trovato praticamente un gruppo di circa 60 ragazzi inferociti, sì, con bottiglie, con ubriachi. Principalmente erano ubriachi, erano fuori di testa, dicevano... Sì, sì. Olandesi, no? Sì, sì, erano loro, sì, olandesi. E poi mi sono trovato la polizia davanti che li ha caricati. Però volevo dire una cosa, riguardo appunto a quello che dicevo di Parenzo, quando ha detto allora? Li confrontiamo con i Rom. Ma alla fine tutte queste persone non gli viene fatto un cazzo. Perché principalmente... Beh, l'hanno presi 23, hanno... intanto l'hanno presi 23 adesso. Adesso poi vediamo quello che succede. Vediamo quello che succede. Ma rispetto, è verissimo, ma rispetto ai danni che fanno queste persone... Ah, non c'è dubbio, perché in gruppo... troppo bene, Dario, troppo in gruppo, bene, è vero, adesso non lo so, perché qualcuno viene a mangiare là, ho visto anche delle scene. Il punto fondamentale è che in branco... È volata, ma molto così... Sì, molto soft, molto leggero. Posso dire soft? No, è vero, quando sono in branco certe persone, è difficile controllarle, uno per uno, magari... Cioè, è Sì, ma quello che non capisci... Però ti devo dire una cosa, io ero nella piazza, e questi con la polizia davanti... Certo. Davanti alla mia faccia se ne fottevano, hanno staccato, sì, un cartello di quelli tondi della divieto di sosta, suppongo. Sì, l'hanno, sì, lanciato verso la polizia a Ma questo lo fanno pure gli italiani, cioè non è che non lo fanno pure. No, cioè... no, è vero che lo fanno, però adesso parliamo di questi. A mio sì, ma il paragone che fa Parenzo con i Rom, con gli immigrati, no, è ridicolo. Non è con i Rom. Il però, paragone è che sono appena tornato da Lampedusa, che dove Lampedusa? C'è un centro di accoglienza che tiene no, mille persone. No, ma perché? No, perché lì ci sono, no, ti spiego perché, sennò sembro matto e sembra solo una provocazione. I veri pericolosi sono quelli là e no, non sono gli immigrati. Ti sto dicendo d'accordo. Anche di più, cioè nel centro di Lampedusa ci sono 1100 persone, vabbè, allora... no? Le masse di cui parli tu, vabbè, no? Che hanno fatto giorni in mare, hanno rischiato la vita, arrivano stremate, vabbè, sì, eccetera. Vabbè, vengono presi e messi dentro questo centro dove ci sono soltanto 20 o 30 poliziotti. Bene, allora, su 1100. Allora vai che dobbiamo... Qualora questi qua volessero scatenare un casino e non lo fanno, avrebbero tutti gli strumenti per... Mentre rispetto a questi qua, vabbè, che vengono certo, qui, quelli sono morti di fame. Quelli sono pieni di birra. Bravo, vengono diverso, qui, eh. Devastano la città. Vabbè, e poi li d'accordo. Accompagniamo pure allo stadio. Andate per affanculo e finisce la questione, insomma. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me. Paoli, sono Parenzo, Radio 24. Volevo chiedere, si sente trattato come un criminale in tutta sta vicenda? Come? No, volevo capire se si è sentito un po' trattato come un criminale, vista tutta sta vicenda, la guardia di finanza, le perquisizioni, le cose. Cioè, uno come lei, un cantautore, un... Beh, ma a che proposito? Non ho capito. No, a proposito della vicenda della supposta evasione fiscale, delle indagini, no, che ci sono state, che quello ci sono. Si vedrà poi. Non ci fosse più niente, più niente al mondo. Ma come si è sentito, però? Cioè, penso che potrò chiarire tutto e che la giustizia farà il suo corso, tutto lì, punto base. Sì, qua. Ma questa cosa qui della finanza in casa, le contestano 2 milioni di euro in Svizzera, cioè come si sente? Lei è un simbolo della canzone italiana? Mi dispiace, ma io non voglio commentare assolutamente questa cosa. Ma ce l'ha il conto in Svizzera, però? Paoli. Vai, David. No, suona il telefono, non l'armonica. Non suona l'armonica, il telefono. Andiamo a Belluno, Paco, buonasera. Buonasera Cruciani. Dimmi. Allora, ascolta qua, una cosa. Allora, io sono islamico. Faccio 5 preghiere al giorno. Sì. Lavoro in fonderia e faccio anche tutto il mese della Ramadan. Sì. Non c'è nessuno. Io non dico che ci sono altri più musulmani di me. Io mi considero come un buon musulmano. Allora? Sì? Allora, il suggerimento che faccio è: ma voi vedete che questi ragazzi, soprattutto che vivono in Europa, che sono nati in Europa, l'odio che hanno nei fronti ai cristiani e ai ebrei, ma la cosa viene coltivata nelle moschee. Sì, vabbè, adesso qui non siamo a fare sociologia. Amico mio, che cosa mi vuoi dire con questa telefonata? Ascoltami, ti dico io. Tu sei praticante, allora, musulmano praticante? Bravo. Sì. Ma che cosa vuoi dire? Dunque, tu sei musulmano praticante, allora? No, ma com'è che io sono in pericolo? Io vivo in Italia, io sono in pericolo. Ma in pericolo di che? Perché sei in pericolo? Nel senso che questi pazzi possono uscire in qualunque momento da tutte le parti. Vabbè, d'accordo. Per... tutte le parti. Non mi sembra che tu sia in pericolo, però, allora, essendo musulmano, allora, praticante, non penso che il primo obiettivo non sei tu, mi sembra, No, ma io sto cercando. Per adesso in Europa negli ultimi mesi hanno ammazzato nelle sinagoghe o vicino alle sinagoghe, in centri ebraici, quelli che fanno le vignette, eccetera, eccetera. Cruciani, ma tu sai cosa succede nelle piccole moschee di quartiere? Che succede nelle piccole moschee di quartiere? Appunto, per quello che ti sto dicendo. Dimmi, che succede? Raccontamelo. Allora, io mi è capitato di andare a pregare una moschea. Dopo due o tre giorni che una persona che mi vedeva pregare è venuta a dirmi, io ho 43 anni, che il modo che sto pregando non è il modo giusto. Fino a qui ci arriviamo, insomma. Ecco, mi sembra tollerabile fino a questo punto. Cosa vuol dire? Perché lui, sapendo che io non ho la mentalità come loro, loro cercano sempre di tirarti dalla loro parte. Io non dico con quella persona. Non ho capito. Secondo te, in queste moschee che tu frequenti, ci sono aspiranti terroristi, simpatizzanti dei terroristi? Ma vengono lì. Ma vengono chi? Chi viene? Il radicalismo che viene fuori di questi ragazzi. Sì, vabbè, amico mio, Paco, tu chiami da Belluno. Dunque, tu frequenti una moschea a Belluno, giusto? No, ma io non frequento nessuna moschea a Belluno. Ma hai detto prima che frequenti una moschea, vai a pregare. Non hai capito. Ho detto, mi è capitato di andare a pregare una moschea. Ah, in una moschea, dove? Una persona è venuta a dirmi dopo che il modo che io sto pregando, perché noi ma abitati, chi è una persona un che attimo, ho capito una ma perso- non è una persona per bene che ti sta raccontando un fatto, vabbè, allora interessante. Ma tu non mi ascolti, Cursani, cazzo. ascoltami. Bravo, arrabbiati. Marco, dai, se non mi fate incazzare stasera. Marco, tu ci hai messo due minuti per non raccontarmi un cazzo. Cosa mi devi raccontare? Ti ha detto che ha paura. Come le iene, già mi fa incazzare come le iene. Tu che ti sei. Perché hai paura? Di cosa hai paura? Tutto quello che ti sei lì mi fa incazzare come una. Amico, non ti incazzare che un islamico incazzato mi terrorizza. No, no, no, per carità di Dio. Allora, io ti sto spiegando, no? Allora, adesso, in questi periodi qua, si cerca di fare cose, si cerca di trovare una soluzione, no? Si parla dei problemi che l'ISIS. Amico mio, io non posso restare con te tre minuti al telefono, non mi fare incazzare, cosa mi vuoi dire, se no ti chiudo il telefono, cosa mi vuoi dire? Allora, chiudi allora a questo punto. Che cosa mi vuoi dire? Non possiamo parlare dell'Islam con te tre ore alle 19:40. Non è un simposio, non è un convegno questo, è una trasmissione radiofonica. Stiamo cercando di trovare una soluzione. Io ma non devo trovare nessuna soluzione. Non devo. Se tu ti senti insicuro perché c'è qualcuno che ti minaccia, che non ti fa che ti dice che preghi male, ha detto un'altra cosa. Vai alla polizia. Tu non hai capito come vengono fuori. Divento pazzo per questo, pazzo io. Dimmi. Ma scusami, questi ragazzi. Il radicalismo che c'è con questi ragazzi, ben coltivati nelle piccole moschee. Ma ragazzi, quali? Ma lì li prendono, li fanno un lavaggio di cervello. Questo lo sappiamo, ce lo spiegano. È importante che te lo dica anche lui, che è un musulmano praticante. In tutte le televisioni del mondo. Tu sì, ma no, è importante perché lui è un musulmano praticante. Sì. Ma non capisce. Guarda che ha ragione, amico Abdallah. Adesso so come si chiama. Paco si chiama, si chiama Paco. Paco sembra un nome del Sud America. Paco, ma che cazzo di nome è Paco? Sei musulmano, sei Paco. Perché Paco? Devi chiamare Abdul. Paco. È un soprannome. Paco, perché tu non ti puoi chiamare Beppe? Ma guarda che sei un personaggio incredibile. Tu ti puoi Beppe che e lui non si può chiamare Paco. Ma no, se l'hai dato da solo il soprannome. Ma chi ha diritto di darsi il soprannome? Vabbè. Ti ha spiegato. Io lo lui... chiamo Abdul. Io lo voglio chiamare Abdul. Oh, Abdul da Belluno. Abdul. Ma mandalo, Abdul, lo puoi mandare a fare a quel paese? No, spiegami che cazzo vuoi da noi. No, questo volevo capire. No, che cazzo vuoi da noi? Cosa vuoi? Io ho capito e tu no. Io non ho capito. Stai zitto tu, fammi parlare. Con allora, io non sto dando un nome falso. Io ho giocato in provincia di Belluno, sono molto conosciuto, ok? Io sono un ex calciatore. Ho 43 anni, vivo a Belluno 20 anni, sono conosciuto, io non sto dando nessuna. Beh, ma non ho detto questo, ho detto che ti hai detto Paco, io ti chiamo Abdul, io ti voglio chiamare Abdul. Potrò chiamarti Abdul o no? Abdul, benissimo, ho mia nonna che si chiama Abdul. Chiami Abdul. Ottimo, e tua nonna che sia Abdul, che nonna è? Scusa, Abdul non è il nome da maschio? Il nonno. Ah, il nonno, avevo capito la nonna. Ma non capisci niente. Cosa hai fumato oggi? Ma io non ho fumato niente. Ma perché sei tu lo che capisco. Mi stai. È da 4 minuti che sei in onda, divento pazzo. Non mi lascia parlare. Ma quando uno chiama, parla di figa, l'ascolti come si fa cosa. Uno sta parlando, ma non solo quello che. Ma hai capito? Ma anche a me piace la figa per quello, non è quello il problema. Però voglio dire, io sto dicendo. Ha ragione, vedi, te l'ha detto. Sto dicendo una cosa molto importante, nel senso che io, come islamico, dico che uno dei problemi è il radicalismo. Che cosa originale che hai il problema è il radicalismo. Non l'avevamo capito che il problema è il radicalismo. È importante che te lo dica lui, che mando, è musulmano. Io ti mando serenamente a fare in culo tra non qualche minuto. Se tu non mi dici qualcosa di ti mando serenamente e tranquillamente a fare in culo. Anzi, ti aggiungo una cosa. C'è tutto il diritto in questo paese, spero, di poter raffigurare il tuo profeta e il tuo come il con la testa con un corpo del cane, cioè il nome. Sì, non una sto scherzando. Lo c'è un signore non lo faccio offendi. Perché io sono un signore, sei offeso da questo gratuitamente, ma certo io sarei offeso. Voglio farmi la maglietta con la testa di Maometto e il corpo di un cane. Rispetto su tutto questo, ma che rispetto? Quella è una vignetta fatta, è la vignetta fatta da un tizio danese che giustamente vuole ritrarre Maometto in questo modo. È un corno, giustamente. Una cosa, poi chiudo, Cruciani. Dimmi. Ma tu sai che, meno male, una cosa. Le vignette. Allora, io da musulmano, no? Io se vedo una vignetta di Charlie Hebdo, io Maometto non lo vedo come disegno, io non vedo Maometto come disegno di un cane, non me ne frega niente, io allora? Cane non lo guardo, quella persona là, io se lo incontro per strada, Cruciani non lo guardo neanche, non mi interessa. E allora che vuoi? Vuoi che uno non può ritrarre Maometto? Io Maometto lo vedo come se lo guardo nel Corano, un altro può usare quello che vuole, però se vuole il rispetto, se vuole il buon senso, bravo, noi dobbiamo cercare il vabbè, il rispetto, il buon senso, quello fa satira, quello fa il disegnatore, può fare, può ritrarre anche Maometto come un cane, chiaro? Si può ritrarre Maometto come un cane, chiaro? No, non si bestemmia. Chiaro? Ma Cruciani, ma tu sei fuori di testa, se... Senti, Abdul o Paco, come ti chiami? Tu non ci hai detto niente. È 4 minuti che occupi queste frequenze di questa radio senza dire una mazza. Per cui ti saluto e ti mando serenamente a fare in culo. Ti faccio solo una domanda. Fammi una domanda, avanti, su. Allora, tu, Com'è che io ti sento sempre parlare dei neri, dei negri, come dici tu? Tu sai che io del negro sono il primo che faccio, sono il primo che scherzo su questo. Io con i miei colleghi di lavoro gli dico sempre che... Ma tu di dove sei? Sei musulmano da dove? Io sono del Senegal. Del Senegal, dunque non ti chiami anche Abdul, come si chiamano in Senegal? Adesso vuol decidere anche come si devono chiamare in Senegal. I Tussi, come ti chiamano? Parliamo di robe serie, no? Allora, come tu... Ma sei nero o negro tu? Come ti chiami? Nero, si può dire negro? Sì, ma io lo dico io sono il primo che dica lavoro come un negro. Ah, va bene, puoi dire lavori come un negro, dunque lo posso dire pure io. Ma io sono il primo che le dico, i colleghi mi prendono sempre in giro per quello. Cioè, io... Vabbè, comunque, amico mio, ti abbraccio, ti voglio bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Crociani, sei il re della radio. Dio, se qualcuno parla di te male, lo ammazzo, Dio, sei il re. Francesco Milano. Sì, ciao. L'attacchi subito l'ambulanza o l'attacchi dopo? Stai tranquillo, vai. Sono stanco di questo giornalismo che passa da Charlie Hebdo, che per vendere 60.000 copie va a insultare il dio di un'altra religione che non fa ridere a nessuno. Sono stanco della Barbara D'Urso, sono stanco di te, Cruciani, che per fare audience metti in bocca a Mughini delle parole contro Salvini, che è scemo, che è idiota. La smettete di fare... Io non ho detto, lui ha detto, no, secondo te è cretino. Tu l'hai detto, senti, Francesco. E c'è bisogno di fare questa intervista. Vabbè, vai. C'è bisogno di andare a fare scuola di giornalismo. Sfogati. Dico, ma c'è bisogno di andare a fare scuola di giornalismo. Sfogati. Siete veramente pietosi, tutti quanti. Sfogati. Siete una categoria veramente da annientare. Non siete più capaci annientare. A fare vostro bene, annientare, bene, sì, annientare. No, ma infatti, perché tra voi e Laureana Fallaci non c'è un abisso, c'è la fossa delle Marianne. C'entra Laureana Fallaci, scusa. Ma perché quello è la giornalista con i controcoglioni, non Bruno Vespa, la Barbara D'Urso, e tu continui a dire a Mughini, ma è scemo Salvini, è cretino Salvini, ma smettetela. E smettetela. E quell'altro cretino di Mughini che va a dire che fra la Fornero e Salvini, perché dice cose sbagliate, Salvini. E invece ha fatto... Ah, ecco, è arrivato il salviniano che è incazzato perché Mughini ha detto delle paroline un po' cattive sul suo leader. Ah, perché la Fornero ci vuole un po' di ingegneria. Ma quello è un suo giudizio. No, ma perché ci vuole un po' di intelligenza a prendere le misure che ha preso la Fornero. A mettere a posto l'Italia sono capace anch'io, così come ha fatto Monti la Fornero. Vabbè, adesso calmati però. Ma sì, ma è diverso, è che un Salvini che ogni volta che parla dà fastidio a Ferroni, che io sono siciliano, ma ha ragione mille volte Salvini. Perché purtroppo quest'Italia qua di merda l'ha rovinata 40 anni di politica, creando come a volte voglia che dire... Questo è partito dalle interviste ed è finito a fare il comizio pro Salvini, ti rendi conto o no? Cioè, ma dai, su, vabbè, ciao. C'è una persona che sta chiedendo il visto per la Libia, vuole andare assolutissimamente in Libia ad ogni costo, capito? Secondo te chi è? No, lo so chi è, quindi l'indovinello puoi farlo per il pubblico che ci ascolta. Io purtroppo non ho neanche parole, guarda. Ma perché uno non può andare in Libia? Fa politica, pensa che non stiamo guarda, facendo... Guarda, lì c'è talmente un casino, le tribù, non c'è lo Stato, c'è una questione molto seria, c'è l'ISIS... C'è, e allora? Che non c'è spazio per il tendoni di un circo, capito? Una non volta, è che scherzano. Una volta i tendoni c'erano, a dire la verità. Una volta c'erano le tende di Gheddafi, che poi ce le ha portate anche qui in Italia con le sue Amazzoni, ma quella è un'altra epoca. Lì non scherzano e non c'è tempo da perdere, non possiamo permettere che le persone che sono lì a lavorare, a cercare un accordo, stiano dietro a uno che arriva con la sua tenda, col suo circo, con le sue burlonate, con le sue stupidaggini, in una terra che è martoriata, dove c'è un casino pazzesco. Cioè, la gente ha da fare. Vabbè. La Farnesina, Gianluca, l'ONU. Gianluca, gli rispondi tu? Ciao Gianluca Bonanno, ciao. Ciao. Beh, rispondo subito con una cosa: se non fosse un eunuco il caro Parenzo, verrebbe con me senza fare tante frottole, perché io vado là per dimostrare nel mio piccolo. Io intanto non ci posso andare, perché non ci puoi andare. Perché no, non ci puoi andare, scusa, non posso andare in quel paese come in altri paesi arabi, perché non solo sono ebreo, ma sul mio passaporto il timbro dello Stato di Israele. Non c'è manco il paese là ormai, cioè, appunto, per cui ma non ci sono misure di sicurezza che mi possono garantire di muovermi tranquillamente, quindi non posso andare con il mio passaporto e con il mio nome in quel paese come in tanti altri allora, paesi. Allora Gianluca, se non fosse un eunuco? Ma non è che sarebbe non... con me, e perché io valgo uno, ma voglio dimostrare nel mio piccolo che quando ci sono delle difficoltà bisogna andare là, non fare come il governo cagasotto che abbiamo, che alla fine non andare fa lì nulla, a far cosa? Non si muove. Ma sei matto? Mogherini, se c'è o non c'è, non ma non è un nessuno. Gioco, non è il Parlamento europeo dove al massimo ti fanno pat sulla testa. Che sono rimasti lì, hai capito? Vado e vai tu, e vai tu, sono lì. E vai tu. Ma perché cioè, è un parlamentare? I dirigenti dell'ENI sono tornati. L'ambasciata italiana, per fortuna, è stata ritirata perché c'era un problema di sicurezza. Arriva il circo, l'uomo della Lega che è lì a Bruxelles ci fa ridere dietro da mezza Europa e va lì a rompere i coglioni in un momento in cui la gente seria sta lavorando. Ma guarda, è incredibile. Che si fa ridere dietro sono la Mogherini, Renzi e Compagni, perché non contano niente in Europa. Ma è incredibile. La Mogherini non conta niente. La Pinotti dice: mandiamo 5.000 uomini. E poi ritratta. Ma dove vai? Poi sentiamo, no, questo mi interessa molto. Allora, buon anno, arriva lì al confine. Che succede? Arriva lì. Intanto, qual è la capitale? Sentiamo, in quale città andresti? Sentiamo. La capitale non è Bergamo, è la capitale della Libia. Non è il Bergamo, Non sono così stupido. Ma arrivi lì con l'aereo e così dici: sono buon anno della Lega! Della Lega, sono arrivato qui. Certo, che tu l'unica cosa che puoi fare è andare in un campo di concentramento e poi farti chiudere dentro. È l'unica cosa qui. Che riesci a fare tu. Sono arrivato qui a Addis Abeba. Perché sono sbagliato. Che c'entra Addis Abeba, scusa. Pensavo fosse qui, pensavo. Perché le mie ipotesi sono due. Quali sono? Andare direttamente con l'aereo lì. Ed è un conto. Sì. Oppure arrivare via terra con l'aereo. Via ma terra per l'Egitto, come via terra per l'Egitto? Ma e quale sarebbe il confine via terra l'Egitto? Che ci sono gli amici dell'Egitto che per fortuna stanno intervenendo e stanno bombardando. Arriva lui e dice: sono arrivato qui al confine con l'Egitto. No, come si fa ad andare in Libia adesso? Ma che sei Totò e Peppino sei lì? Vado all'avventura, è sicuro. Perché all'avventura. Non ci sono dietro. Non Indiana Jones è l'ultimo buon anno. Pensa a te, Indiana Jones è l'ultimo buon anno. Un segnale, perché stare col culo al caldo, come fanno tanti europarlamentari, ma cosa vuol dire? E guardare con il binocolo, ma è una roba seria, è più grande di te. È una roba più che rimani a giocare a Bruxelles, a Strasburgo, è più grande, avrà lo Sesi al massimo. È più grande di te quella roba. Sei una mezza sega, tu continui solo a fare le tue pippate. Però intanto se sono capace di giudicare, ma non vuoi mai sedere. No, io dico una cosa, però scusa, che dici tu, Parenzo? Scusa, sono andato lì in Malvasia. Ma che c'entra? Per il liquore, la Malvasia è buonissima. Ma che c'entra, dai? Era lì. No, però non io dico una cosa. L'aereo. Gianluca Buonanno è un parlamentare europeo della Lega Nord. Vuole stare vicino agli italiani che sono rimasti è lì. È una pagliacciata, ti rendi conto? Aspetta, è anche pericoloso. Fammi parlare. Vuole andare lì a dare una testimonianza agli italiani che sono rimasti. Ora è complicato, lo capisco, perché bisogna andare lì. Lui ha detto: scusa, non ho capito com'è questa storia che o vai in aereo, vabbè. No, vuoi sapere come arriva? Perché se uno non sa neanche come si arriva in Tunisia. Sentiamo. Come vuoi arrivare? Come vuoi arrivare in Tunisia? Sentiamo. No, in Libia, che c'è tra Tunisia? In Libia, scusami, pardon. Arrivi in Egitto e dall'Egitto vai verso Tobruk. Quindi prendi l'aereo, fammi capire. Quindi da Malpensa. Non ci sono i tedeschi. No, aspetta un attimo, voglio capire tecnicamente. Quindi tu vai all'aeroporto, ci salve, sono buon anno, ti prendono un aereo per l'Egitto. Dove vai intanto? Al Cairo, dove vai? Per banalizzare tutto, guarda che è una cosa seria. Cioè, vai al Cairo con l'aereo, poi? E ci rimetto le piume io, ce le rimetto io. E poi dal Cairo cosa fai? Vai con una macchinina? Chi ti porta con la macchinina al confine? Come pensi di passare il confine che c'è la guerra? Ma perché fai spagliacciate? Mi fa finire. Allora, aspetta, fermi tutti, adesso dopo ce lo spieghi, dopo la pubblicità. Allora, il viaggio di buon anno in Libia, probabilmente la settimana prossima. Io su questa cosa però devo dire la verità, lo appoggio, caro Parenzo, perché vuole andare in Libia a dare una testimonianza agli italiani che stanno lì. Ha preso il visto, eccetera, si organizzerà, non peserà sulle casse dello Stato, fa il cazzo che vuole, rischia la vita, fa il cazzo che vuole. Non ho capito perché non si può fare politica anche così, si deve fare per forza fare politica con le dichiarazioni o nei talk, eccetera. Fa politica anche in questo modo, fermi. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Ormai è tutto degradato. europarlamentare della Lega Nord, che ci spiega i dettagli della sua missione libica, caro Parenzo. Ma della quale sua missione libica? Prodi farà una missione in Libia. Ma che Prodi? Prodi è meglio che lo teniamo lontano dalla Libia. Che quella è gente che ha i rapporti, conosce, sa come ci si muove. Allora, prima di tornare con Bonanno, qualche notizia da quest'Italia folle, da quest'Italia vergognosa, da questa Italia pazza. Adesso ti do qualche notizia. Ma no, ma è incredibile. La prima notizia è questa: a Modena, da quello che mi segnala un ascoltatore, a Modena, il comune di Modena butterà via 5.000 euro, che sembrano pochi, ma in realtà sono tantissimi per un comune, 5.000 euro per cambiare le intestazioni, eccetera, eccetera, perché scriverà assessora anziché assessore, probabilmente nelle carte intestate, cioè per questa puttanata si butteranno via 5.000 euro e forse anche di più a Modena, a Modena. Altra follia, il tribunale di Ivrea ha condannato un uomo perché ha definito MILF su Facebook. Sappiamo tutti cosa significa MILF, no? Lo sappiamo. Mother, I fuck to love. I love to fuck, scusate. È stato licenziato. Ha definito MILF una collega ed è stato licenziato. Cioè, questa ha fatto causa, evidentemente, questo è stato licenziato. Cioè, non si può nemmeno definire MILF una persona, una collega, e uno viene licenziato. Pazzesco, pazzesco. L'altra cosa incredibile accade perché un carabiniere, adesso non so bene i dettagli, ma me l'hanno spiegati tempo fa, un carabiniere... Beh, forse perché è considerata molestia. No, no, aspetta. Sì, ma... Forse, ho detto. Un carabiniere ha arrestato in flagranza, questo è successo a Lucca, un carabiniere ha arrestato in flagranza di reato un tunisino che stava rubando dentro un'azienda, ma poteva essere anche un italiano, non è quello il punto. Appunto. Ed è stato accusato dal ladro di lesioni, di lesioni. Io ho sentito anche per telefono, abbiamo sentito per telefono, conosco anche il difensore, eccetera, eccetera. Questo non ha fatto un cazzo, si è difeso e lo ha arrestato in maniera anche piuttosto ruvida. Ma che deve fare un carabiniere? Deve dire ti arresta con un mazzo di fiori? Ti arresta con un mazzo di rose? No. È stato condannato a 6 anni di reclusione, pena sospesa, e a risarcimento di 7.500 euro. E più spese processuali per avere arrestato in maniera vigorosa, diciamo così, un arresto un po' troppo violento, un signore tunisino che stava rubando del rame. Questo succede in Italia, capito? Questo 5 anni fa. Vabbè. Siamo con Gianluca Bonanno. Allora, io non ho capito quali sono le possibilità. Il visto a che punto è, Gianluca, innanzitutto? Beh, spero di avere la risposta definitiva lunedì. Sì. Ma a chi l'hai chiesto? A chi l'hai chiesto? C'è un ufficio dell'ambasciata libica in Italia? L'ambasciata libica a Bruxelles. L'ambasciata libica a Bruxelles. Mm. Ma che ti hanno detto? Non te lo vogliono dare? Non te lo vogliono dare? Ma... Che dici? No, mi sono sembrati abbastanza possibilisti. Il problema poi c'era anche la Farnesina, la quale si è spaventata perché io voglio andare in Libia. Ma ti credo, perché con tutti i problemi che hanno da gestire un caso, non è che possono gestire un matto della Lega che va lì a fare il cinema. Ma come ci vai da solo, scusami? Probabilmente sì, adesso però c'è stato qualcuno che mi ha chiesto, tra l'altro un siciliano mi ha contattato, un siciliano. Che ha saputo questa cosa, dicendo io in Libia ci sono andato parecchie volte per lavoro, se vuoi ti do una mano per andare da quelle parti. Dal punto di vista logistico, dici tu. La Farnesina che dice? Immagino che tu hai contattato pure la Farnesina, dice scusi sto andando in Libia, l'hai avvertito o no? Sì, no, adesso sono un po' perplessi, Comunque le manderemo una carta dove diciamo che è una cartina geografica ti manda intanto. Io ho deciso di fare quello che ritengo opportuno, dopodiché non chiedo niente a voi, non chiedo niente a nessuno. Semmai dico spero di no, faccio le corna. Dovessero mai catturarmi, nessuno si deve preoccupare di me perché non voglio niente da nessuno. Punto. Metti più vicino la bocca. No, a me dispiace perché la cosa è seria. Ma la ieri cosa tu è hai seria. Detto una cosa, diglielo in faccia. Speriamo che lo catturino, così ce lo togliamo dai coglioni. L'hai detto ieri. Io su questa roba qui non. Guarda, quello che mi difende non anche posso dire che speriamo che lo catturino. Del genere. Non dobbiamo mai augurare male a nessuno. Ma speriamo che non catturi proprio nessuno. Lì è pericoloso. Lì non si gioca. Quello che tu devi capire, per cui non si può scherzare, è che un conto sono le buffonate che tu fai a Bruxelles, un'altra cosa è andare in un territorio di guerra in cui c'è la diplomazia al lavoro, anzi che cerca di cominciare un lavoro. Non c'è nessuno. Vanno via tutti i funzionari dell'ENI, sono andati via, l'ambasciata italiana è stata chiusa, arriva lui a fare andare. Casino, vabbè. Arriva lui a fare una pagliacciata, è pericolosissimo. Vengono spesi soldi poi per lavorare su di lui, ma è incredibile. I soldi sono miei, vado con i miei soldi. Non chiedo soldi a nessuno. Ma non serve, e poi non serve a niente. Va lì a fare cosa, Buonanno? Ma intanto vado se riesco a fare in modo di dare la mia solidarietà agli italiani che sono ancora lì, ce ne sono tanti. Dopodiché riuscire a cercare di capire, perché sì, capire. Leggiti Limes, leggiti un po' di riviste, governo. Cercare di capire, vai lì a capire cosa, leggiti due riviste, due libri prima, vai, leggiti il libro di Molinari, allora da cercare di capire. Cosa, visto che tu fai giornalista, no? Arriva lì, allora, cerco di capire. Ma quando vai in giro che cerchi di capire, perché vai, stai a casa tua e fai le trasmissioni dal tuo appartamento. Ma che vai? Discorsi sono? A parte che ti ho detto che io in Libia non ci posso andare, un conto sono i cronisti che ci vanno, un conto è la pagliacciata di un politico, un conto è se uno ha un mandato, come potrebbe avere Prodi, come aveva Blair, come può avere... Ma Prodi stare dietro la scrivania, di stare al caldo... Ma non sei utile lì, fai solo casino come fai in Italia a Bruxelles. A Bruxelles sei utile tu, no, perché fai casino. Vengono lì però Schulz e gli altri ti fanno pat pat sulla testa e dici vabbè, ok, mi sono buonanno. Forse sono i tuoi amici comunisti, perché anche quello di Modena che ho sentito adesso ti fanno così, guarda, pat pat sulla testa, assessore, se non possono essere solo di sinistra, perché queste guarda, sono solo loro. Cruciani ha ricordato questa follia di Modena, dopodiché qualche anno fa nei comuni governati della Lega avete cambiato tutta la toponomastica, perché dovevano essere scritti in dialetto i nomi, quindi sullo sfracellamento delle, no, delle sfere sulla, guarda che il primi a cambiare la toponomastica, la roba di Modena è allucinante, ha ragione Cruciani. Dopodiché ricordiamo anche che dove hanno governato i sindaci della Lega avete cambiato la cavolo di toponomastica. Berghem la chiamavate, Berghem, Parenzo, se hai le palle che non hai, vieni anziché Bergamo, fai un bel reportage Berghem, vai con Bonanno in Libia. Ti ho detto che non, che non voglio creare casini. Secondo, non ci posso andare perché, essendo di religione ebraica, non mi fanno neanche entrare lì. Capito? Mancano le palline, Parenzo. Ma non è questione di quello. Io il mio lavoro lo faccio, e a parte che non sono mai stato in teatri di guerra, quindi non sarei neanche capace. Forse ma c'è qualche domanda che vuoi? Dimmi qua. Va bene, voglio andare in Libia. Aspetta, voglio andare in Libia. Benissimo. Quali sono i confini della Libia? Avanti, vediamo. Uno vuole andare in Libia, vediamo. Confine la Libia. Allora, da una parte confina con il Chad, il Niger, l'Algeria e la Tunisia. Va bene, Wikipedia ha funzionato. Perfetto. Il Wikipedia ha funzionato. Ma la capitale, sto parlando con te. Qual è la capitale? Non è che vengo qua a fare, non è che devi venire qui a farmi l'interrogazione. No, per sapere dove vai. Scuola, no. Dice vado non in Libia. Qua a farmi vabbè, adesso ti vuole fare, in Libia. Ti vuole fare delle domande, vado in Libia, no, sono finito guarda, ad Amsterdam, non so perché. Uno che si fa studente in un campo di concentramento nel 2015 ancora. Non ha motivo di parlare. Sono stati i polacchi che hanno fatto il casino. Io non mi sono chiuso da nessuna parte. Capitale della Libia, avanti, capitale della Libia. Capitale della Libia, Borgosesia. Vabbè, ma qualche parola in arabo la saprai, no? Sai qualche parola in arabo? No, come no. Si dice grazie in arabo? No, non lo so, guarda. Non sai l'arabo, manca una parola. Beh, quello ti serve. Inshallah, ad esempio. Cosa ma non vuol sai dire manco inshallah? L'inglese, Gianluca. Non sai inshallah, ma lo saprai cosa vuol dire inshallah? C'è anche un libro della Fallace che si chiama Inshallah. Senti, che vuol dire inshallah? Una cosa, guarda, la sai? Shukran. Da te. Io faccio una cosa. Wallahu Akbar, lo sai cosa vuol dire? Uno è un eunuco, sei. Wallahu Akbar, sai cosa vuol dire o no? Tu non riuscirai mai a fare niente, se lo faccio solo a criticare. Però scusa, inshallah, ti sto chiedendo una cosa, inshallah, sai cosa vuol dire inshallah o no? Inshallah. Pronto? Inshallah. Non lo sa, non lo sa. Va bene. Vabbè, Parenzo, poi che vuoi chiedere? No, ma... Come? Ha battuto? Ha chiuso? Sì, perché Wikipedia non fa la traduzione arabo-italiano. Quindi se tu metti su Wikipedia... Ora richiamiamo, aspetta. Inshallah. Prendiamo la linea con Bonanno, vi faccio sentire l'incredibile intervista di ieri dal Vignardi del ministro Madia. Un'intervista incredibile, a parte alcune cose sti cazzi in maniera incredibile per le domande fatte ma o per tutto, le risposte date. Una cosa pazzesca, no, una cosa specifica, perché sennò sembra una cosa dice le domande... tutto, amo la vita del genere, no, non lo so, cioè per le cose che ho sentito di una banalità, di una ma una roba, amo la vita di Gesù. Il Vangelo è il libro più bello della storia dell'umanità. Ma è una cosa pazzesca. Con la fede, io amo la vita di Gesù, amo leggere il Vangelo, dei passi del Vangelo mi danno fiducia, mi danno speranza, e penso che sia il libro, il testo più bello che sia mai stato scritto nella storia dell'umanità. Poi a un certo punto dici: c'era la storia con un giovane coraggioso che voleva cambiare il paese. Quella è la stessa Maria che non mi sembrava fortemente renziana anni fa, comunque. Ovviamente io l'ho scelto di perché farlo. Perché l'ha fatto? L'ho scelto perché era un momento della storia in cui un giovane coraggioso, che è il nostro attuale Presidente del Consiglio, si assumeva la responsabilità di cambiare il nostro paese con l'urgenza che ci chiedono oggi i cittadini, e chiedeva a una generazione di assumersi con lui questa responsabilità. Io ero incinta in quel momento, sì, è vero, però la storia passava in quel momento. La storia passava in quel momento, ragazzi. Non ce la faccio. Di fronte a queste cose non ce la faccio. Ho accettato di fare ministro perché c'era la storia che passava con un giovane coraggioso che voleva cambiare il paese. Non ce la faccio. Il leccaculismo non è roba che mi appartiene. Non c'è niente da fare. Giustamente. Non ce la faccio. Un tweet che ti devo segnalare. Aspetta. Buon anno, che c'è? Perché è caduta la linea, Gianlu? Mi stavo muovendo, scusa. Allora. Hai messo il naso rosso nella valigia? Ma no, ma senti, Parenzo, per una volta, no? Almeno se sei lì a un certo punto metti il naso e dissimuli. No, è arrivato il circo. Non mai, perché sei troppo cattivo. Allora, per una volta. Però ho fatto delle domande. Io ti auguro. Io non vorrei che tu andassi. Ma che perché domande secondo volevi me fare sono ancora? Preoccupato, sinceramente. Dopodiché, la gente lì ha da fare. Ci sono persone molto serie, molto esperte, impegnate su quei territori. Addirittura molti tu italiani. Non andare a rompere i coglioni alle persone che lavorano lì. Ma certo. Quello vuole andare a dare la sua solidarietà agli italiani che stanno lì, potrà andare o no? Non a spese nostre, potrà andare o no? Ma certo, ma è pazzo. C'è una televisione che mi ha contattato perché forse vuol venire. Chi? Una televisione che vorrebbe venire con me. Una televisione. Beh, però io voglio chiederti un'altra cosa. Una televisione di Stato. È una sola, la RAI, non è la RAI. No, è una RAI. Ah, i russi. Non è mica i russi. Ah, vai con la scorta di Putin. Ah, cambia tutto. Beh, no, però questo, perché non vai con la scorta di Putin? Chiedi alla Russia se ti dà una. Perché questo è interessante invece. Cioè, potresti andare con gli amici russi. Vabbè. Comunque, però senti, non ho chiesto niente a nessuno. Hai letto questi commenti pazzeschi del sindacato di polizia penitenziaria sul romeno morto? Allora, ricapitoliamo. C'è un romeno che si è suicidato in ospedale. Io li capisco comunque, non è che gli do contro. Cioè, li capisci questi della polizia penitenziaria? Eh beh, certo, li lasciano lì. Cioè, abbiamo uno Stato che fa paura, fa schifo. Sì. Questi rischiano la vita per 1.200 euro al mese e questi qui li prendono, il giorno dopo sono fuori, fanno quello che fanno e questo Stato è uno Stato collabrodo. Io li capisco. Si è appena tolta la vita una persona in una patria galera italiana. Allora tu ti devi rendere conto di quello che dici. Se tanti romeni tornassero al loro paese, io sarei solo contento. Cioè, il fatto che sia morto uno, che si è suicidato, a te non te ne frega niente. No, non me ne frega assolutamente nulla. Bravo. Uno di meno, anche tu dici uno di meno. Meno male che non governa, guarda. Anche tu dici uno di meno. No, io dico uno di meno, non è che sono io che gli ho detto che doveva farlo, però a me non me ne può fregare di meno. Perché allora, i delinquenti come quelli lì che non hanno nessun. Ti avviso che il DAP ha preso provvedimenti, limite, il DAP e il Dipartimento di Assistenza Penitenziaria. Come tanti altri di quella stirpe lì fanno quello che fanno, uccidono, massacrano, picchiano per quattro soldi, che rubano, perché l'ho già detto forse anche a voi. Sono venuto a Roma non tanto tempo fa, sono salito sulla metropolitana, la prima cosa che ho sentito è non benvenuti a Roma, ma attenzione ai borseggiatori. Vabbè, allora questo qua, questo aveva 39, uno che si uccide in carcere, 39 anni, rumeno, era stato condannato all'ergastolo per aver ammazzato un tale che si chiama Guerrino Bissacco vicino a Padova. Tanti soldi. Abbiamo risparmiato tanti soldi, no, dunque bene, cioè, è positivo. Ma è una sua scelta, però a me non me ne può fregare di meno. Allora, il fatto che una persona sia morta nelle mani dello Stato non te ne frega niente, benissimo. Com'è? Il fatto che una persona sia morta nelle patrie galere, nelle mani dello Stato, non te ne frega niente, anzi meglio. Guarda, questo no, è il buon anno pensiero. No. Allora, è un super delinquente, assolutamente no. Allora, perché quella gente lì deve rimanere in galera, invece la polizia... Cioè, meglio che sia morto piuttosto il fatto che lo manteniamo per chissà quanto tempo, questo è il punto. Ah, sicuramente, guarda, cioè, il fatto che comunque sia morto è stata una sua scelta. Hai molti punti di contatto col califfo, tu. Comunque, cominci ad avere molti punti di contatto. Rimanere in galera tutta la vita. Fine. Vabbè, però tutta tu vita, dici però. Il tuo stato di diritto è simile a quello del signor. Allora, però Al-Baghdadi, c'è una cosa, sul Mattino di Padova, è uscito un articolo in cui si ricorda la vicenda: suicida in carcere opera l'assassino di Guerrino Bissacco. Ioan Gabriel Barbuta, 39 anni, rumeno, era condannato all'ergastolo per l'omicidio commesso nel 2007. I commenti dentro questo articolo, Parenzo, ti fanno capire che cosa? Che la gente del fatto che sia morto questo qua suicida in carcere, alla gente non frega un cazzo. No, questo è vero, io allora, sono come loro. Guarda, senti uno, stai zitto, cioè, bisogna giustificare questa schifezza. Fammi leggere. Cosa vuol dire i commenti? Mi fai leggere o no? Allora, un tizio che si chiama Tiziano Sgarbossa di Padova, Mattino di Padova, commenta: ha fatto la cosa più giusta e saggia, dovrebbe essere di esempio per tanti suoi amici il suicidio. Un altro, tutti così sono, Massimo Norbiato, uno in meno da mantenere. Un altro dice bene, un altro dice meno uno. Tu sei d'accordo con questi, Gianluca? Sì, uno meno da mantenere sicuramente sì, e comunque le leggi in Italia sono troppo blande. Ti dico questo che mi hanno raccontato le forze dell'ordine, quindi non me lo immagino. Perché la gente dica le peggio porcate, qua, non è che lo scopriamo molte oggi. Di queste persone qua che arrivano in Italia vengono, perché qui possono delinquere, perché comunque il 90% dei reati non viene punito, e quando anche lo becchi molto spesso vanno fuori il giorno dopo. Guarda che l'evasione fiscale di cui stiamo parlando, di cui sono accusati molti italiani, di cui stiamo parlando in questi giorni. Che c'entra l'evasione fiscale? C'entra, perché questo dice che vengono qui a delinquere dagli altri paesi. Ce l'abbiamo qua la delinquenza, ce l'abbiamo anche qui la delinquenza. Che c'entra Gino Paoli? Ah, poi un'altra cosa, ma perché non parlate? Voi sì, l'avete fatto ieri, perché ho sentito sulla vicenda Soria, ma se questo qui invece di accusare chi ha accusato, a me lo dici, avesse accusato qualcun altro, voi l'avete fatto. A me... Ma guardate i giornali oggi, un vuoto totale. Non è questione di leccaculo di Renzi. Il problema è che i grandi giornali oggi, ognuno di questi grandi giornali ha i suoi amici che secondo Soria sarebbero stati pagati in nero. Io non dico che questi sono colpevoli, tutt'altro, sono tutte cose da provare. Da vedere, però in altre occasioni, pagine, inchieste, gente messa sui giornali, interviste, contro interviste. Si potrebbe dire la stessa cosa. Rispetto agli altri giornali, si potrebbe dire la stessa cosa di Libero e Il Giornale quando c'erano altre vicende, no? Bah, Libero, Giornale, sì, Giornale, sì, Libero un po' di meno, Libero sinceri, meno, Giornale, sì, siate certo. Obiettivi. Il Giornale, si potrebbe di famiglia, dire, certo. si potrebbe dire, non c'è dubbio. Giustamente la stessa cosa. Che impressione ti fa Gino Paoli? Gino Paoli, guarda, poi il presidente della SIAE. Complimenti. E poi poi critica, non so, Berlusconi, la destra, tutte queste cose qui. Loro sono i primi a fare i furti. Vabbè, ancora non è provato. Loro chi? No. Poi cos'è sta generalizzazione? Loro chi? Tirano fuori queste cose qui. Ma loro chi? Cosa vuol dire loro? Ancora? Come gli immigrati, tutti rubano loro, tutti rubano a sinistra. Ma che roba è? Che fanno sempre la morale, questi ma radicali. Che vuol dire loro? Questo qui la prima cosa che deve fare è dimettersi dalla SIAE, subito. Qualcuno già gliel'ha chiesto. Va bene, Gianluca, presto, aggiornaci sul viaggio. Ciao. Buonasera, canaglie. C'è qualche precisino che mi contesta il fatto che in diretta ho detto che l'acronimo MILF, non so manco quello che ho detto, Mother I Love to Fuck, probabilmente ho detto, invece I like to fuck. Non mi rompete le balle, so benissimo cosa significa MILF. Dunque non fate i precisini, non fate i professorini, voi online, voi sul web, sul famoso web. Non siete seri per niente. Comunque è incredibile che un tribunale condanni una persona perché ha dato a una collega della MILF, come se fosse un'offesa, non so in che contesto. Ti ho detto forse per molestie, tentata molestia. Sì, ma no, ma non c'è solo, se ci fossero state pure le molestie... Hanno attribuito a quell'espressione. Ma ho capito, ma chi se ne frega molestia, il credo, motivo? Non lo so, non ho visto appunto, la cosa. Appunto, ma non ha senso, no? Beh, cioè, se ne parliamo, sì. Che sì, ma non ha senso questa condanna, cioè non ha senso questa condanna, vabbè. Ambrogio, provincia di Lecco, Ambrogio, vai. Pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe, senti, io ti volevo dire che sulla storia dell'immigrazione state, secondo me, esagerando alla grande, perché siete voi che create sta psicosi sugli immigrati, i rom, gli zingari, perché io non ho mai avuto nessun tipo di problema. Sì. Ho anche un locale, ci sono rom che vengono, rumeni, sì. Sono tranquillissimi, ci ho anche lavorato. Ma sicuramente ci sono anche rom tranquillissimi che pagano, no, ma chi ha detto il contrario, scusa? No, il problema è che voi date spazio magari a uno, a un Barry quello là che ha delirato, ma il problema non è il Barry che fa il suo coso delirante, ma è un Mughini, un Sacchi, sono loro che... Che c'entrano Mughini e Sacchi, scusa? Scusa, quelli parlano, uno dice che in una squadra ci sono troppi neri, cioè è razzismo questo, ma quello dovete dire. Troppe persone di colore, ha detto una cazzata perché persone di colore non di colore, ma voleva dire, ma non è razzismo, voleva dire un'altra cosa, dai. Ma se voleva dire un'altra cosa, voleva dire che ci sono troppi stranieri, ha sbagliato ad esprimere quel concetto. No, ma un concetto si esprime in italiano, siccome appartiene alla classe dirigente, come ama dire Mughini. Cioè, un concetto è dire ci sono troppi stranieri. Se dico ci sono troppi neri, non stai esprimendo un concetto, sei un razzista, sei un cretino. Lui è Mughini. No, però Mughini lo difende perché dice che non è razzista. Io in questo caso devo dire la verità, ha detto una cazzata pazzesca, perché ha parlato di persone di colore che giocano. Qui non c'entra niente le persone di colore. Voleva esprimere un concetto, che ci sono troppi stranieri in Italia. Per me è una cazzata anche questa, ma non va bene lo stesso, non si può accusare una persona di razzismo, capito? Cioè, no, dai. Però ho capito che prima c'è Optiopta, quello là che ha detto quella frase, quello là è diverso, dai, è un po' diverso, però è caduto così. Adesso Sacchi, voglio dire, CT della nazionale, supercampione, pluri, adesso non so, e ti dice che i neri non vanno bene nelle squadre. No, ma volevo dire stranieri, ho sbagliato, frainteso. Mughini che arriva, che fa il letterato, che poi letterato, insomma, è famoso solo per una trasmissione di calcio che ha fatto, e lo difende, e a Mughini gli vorrei dire... Allora, c'è una consigliera della regione Lombardia che si chiama Baldini, che io conosco bene, la consigliera lombarda che è stata eletta con la lista Maroni, adesso in realtà credo che sia nel gruppo misto, che sostiene che gli immigrati danneggiano la bellezza dell'Italia. Questo dice la signora Baldini, la mia amica Maria Teresa Baldini. Dice, poi uno si stupisce se la gente vomita razzismo, e se anche i politici vomitano razzismo la gente si sente autorizzata. Così si è persa la consapevolezza di certi valori, perché abbiamo accolto persone a cui le opere d'arte non interessano nulla. Non interessano per niente. Non stupisce se lo dice. Diciamo che anche agli olandesi, anche agli olandesi non interessano le opere d'arte. Meno però, male che l'hai detto. Esatto, sono d'accordissimo con Parenzo su questo, nel senso gli olandesi sono dei cretini, non mi interessa che sono europei, italiani, ok, se sei un ubriacone che va in giro e spacchi un monumento sei un cretino, punto. A me dà fastidio sentire uno come Mughini che dice no, ma no, lui non voleva dire questo in realtà, perché sì, la però ragazzi, è non bisogna, che lo non dice, è che si può essere, non è che possiamo fare troppi politicamente corretti adesso, se no veramente prendo la parte di Sacchi tutta la vita. Ha voluto dire una cosa molto semplice, che ci sono troppi stranieri nelle squadre italiane, sbagliato, e ha detto per dire quella roba lì, ha detto c'è una persona di colore, ci sono troppe persone di colore, ha sbagliato. Adesso se insistete, no, persone di colore, se insistete passo dalla parte di Sacchi al 100%, ma non c'è bisogno, passo dalla parte di Sacchi al 100%, perché se basta la sciocchezza, basta, si può dire che è la sciocchezza, ma ha detto una cosa ma è ancora più grave, se vuoi, perché essendo il calcio è seguito da milioni di persone, una delle poche cose seguite da milioni di persone, e siccome è un simbolo Sacchi, perché è un simbolo come lo sono i calciatori, dovrebbe stare attento, perché invece il calcio è il luogo in cui l'integrazione avviene davvero. Fammi sentire Mamadou da Torino, signor Mamadou. Buonasera Mamadou. Buonasera a lei. Da dove viene lei? Da quale paese? Senegal. Senegal, ma è italiano oppure senegalese? Io sono sempre senegalese. Vabbè, sempre, anche che vuol dire? Anche italiano o no? È senegalese, va bene, ok, è senegalese. Che passaporto hai? Italiano e cittadino italiano oppure no? No, ho il passaporto del mio paese. I miei figli hanno passaporto italiano, però a me mi basta quella di te. Ottimo, allora? No, perché poco fa ti ho sentito parlare che devi fare un disegno sul vignetto del professor. Io non devo fare nessun disegno, l'ha fatto un signore danese che vive per aver disegnato Maometto come un cane, vive protetto dai terroristi perché lo vogliono ammazzare, chiaro? Detto, Tu hai detto che lo vuoi fare. No, io ho detto se questa storia ancora continua, faccio una maglietta con la vignetta sbagli, che ha fatto. Perché è una bestemmia inutile. Ma lascia perdere la bestemmia. È una bestemmia inutile. È un disegnatore quello. È una bestemmia inutile. E dovresti avere rispetto per i disegnatori. No, per rispetto quelli che per le bestemmie però. Ma non, quello bestemmia? È un altro tema. Ma non c'entra se niente. Se mi si chiede, quella è una bestemmia inutile. E anche volgare che offende milioni di persone. Vai a dire quello che vive adesso protetto dalla polizia. Vergognati. Mamadou, dimmi. Cosa c'entra questo? Non confondere i piani. No, dimmi. Se mi fai parlare, sì. Io da anni che ti ascolto, ma tu tutti i giorni dimostra sempre quelle che chiami coglione. La coglione sei tu. Vabbè, il coglione. La coglione, si dice il coglione, eh. Il coglione. Sì, ma sì. Che dici la coglione sei tu, dici il coglione sono io. Comunque va bene lo stesso, dai, abbiamo capito. Dunque? Hai capito, non hai capito ancora niente. No, ti stavo dicendo solo ti conviene. Meglio che non fai questo vignette che vuoi fare nella maglietta. Perché? Se le faccio che succede? Mi minacci? Che fai? Ma no, non sono i minacci, tanto che io non sono capace di fare un cazzo, ma ci sono altri che te fa, perché questo è un insulto. Ma io voglio solo magari... Tu sei islamico? Sei islamico? Cosa? Sei islamico tu? Amico di cosa? Sei islamico? Amico di cosa? Oddio, ma da quanto tempo stai in Italia? Perché parli bene italiano, mamma tu? Sei islamico? Sei di religione islamica? Io sono islamico, sì. Sei islamico, allora... Io... Parla meglio di qualsiasi leghista. Non sai, ho detto comunque, niente. Se ascolti Radio Padania, non è che parlano meglio italiano. Perché noi non pronunciamo niente, né un parola male sul Gesù, perché noi ci crediamo bene. Ho capito, perché ma qui si tratta di un'altra cosa, si tratta di vignette, satira. Sai che cosa vuol dire satira? Non è proprio satira. La satira. Sai cos'è? Se vogliamo andare bene ancora avanti, dobbiamo lasciare stare questa profeti religione. Una alla volta quando dici sei terrorista musulmano, non esiste questo, perché un musulmano non può essere un terrorista, nessuno che ti dice l'Islam, vabbè, vuoi saltare la bomba, ammazzare la gente. Questo vabbè, ma quello è un altro discorso, adesso stiamo parlando delle vignette, fermo che c'è, fermo là. Siete proprio delle bestie. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Mi era sfuggita questa cosa, il candidato alla presidenza della regione Veneto del Partito Democratico Alessandra Moretti questa mattina torna ancora sulla vicenda, ma noi siamo qui a ripetere per l'ennesima volta che è una bugia colossale, cioè il fatto che per la prima volta lei sostiene un politico si è dimesso senza paracadute. Non è vero, perché al 99,9%, al 100% siamo Moretti arriverà o prima o seconda e dunque sarà eletta automaticamente al Consiglio regionale. Dunque il posto è assicurato in regione. Diciamo che essendosi, lei forse questo intende, essendosi dimessa dal Parlamento europeo per fare giustamente la campagna elettorale, tutto questo periodo di campagna elettorale, di lavoro che lei svolge, non percepisce, come è giusto, alcuno stipendio dal Parlamento europeo. Non è vero. Perché nel tempo di dimissione dal Parlamento europeo, non copre diciamo i mesi della campagna elettorale. Andiamo a controllare, ma il problema non è quello. Molto dice prima. Non è attaccata la poltrona. È giusto di mettersi prima e nessuno l'ha fatto mai. Ma il posto a partire da quando ci saranno le elezioni bene ti è assicurato. Comunque Moretti. Mi sono già dimessa dal Parlamento europeo, dimostrando che ogni tanto, anche se sono passati 23 anni da quando c'è stato qualcuno che l'ha fatto, non siamo sempre così attaccati alle poltrone. 23 anni da quando qualcuno ha fatto cosa? Scusi, ha lasciato la poltrona di europarlamentare. Si è dimesso da un posto sicuro per correre dal libero cittadino per 4 mesi. I politici italiani, alcuni politici non sanno nemmeno chi è Altani che è il premier libico, eccetera. Per esempio la Binetti, sentiamo la signora Binetti, ieri Matrix. Altani parla proprio di Italia in pericolo. Sì, lo so, lui dice siamo arrivati a Roma, no? Roma, siamo al sud di Roma. Sì, no, lo so, però, sì, però voglio dire, l'espressione è sempre la stessa. C'è uno della Lega Nord che si chiama Prataviera. Prataviera, senti, senti questo. Al-Sisi, chi è Al-Sisi? Al-Sisi può essere una risposta ad al-Baghdadi? Chi? Al-Sisi. Al-Sisi è il presidente dell'Egitto. No, guarda, presidente egiziano, almeno al-Baghdadi è... E lo so, è il capo dell'ISIS. Dell'ISIS. Al-Sisi, no, no, non mangio io carne. No, Al-Sisi. No, non mangio, mangio solo puentami. No, non mangio che roba. No, guardi che è un premier. Il premier egiziano. No, non mangio che roba, solo puenta. Vabbè, non è che adesso solo quelli della Lega fanno così, dai, smettila. Ma abbiamo con noi, caro David. Abbiamo con noi Lucio Caracciolo, finalmente, che ci spiega. Una persona da cui... Lucio Caracciolo, che ci spiega tutta la questione interessante della come Libia. Ha fatto sull'IMES della Libia e di chi è impegnato sul campo. Grazie, Caracciolo. Buonasera, Lucio. No, allora, no, una persona da cui mi voglio fare sottomettere. Mi voglio fare sottomettere. Well back. No, che c'entra Wolbeck? No, chiedo. No, Wolbeck no, quello è l'autore del libro, no. Pensavo Wolbeck. Milli, d'abbraccio, Milli, ciao! Wow, ciao, come va? Come stai? Come stai? Non c'è male, non c'è male. Incredibile. Che stavi, se lui non che stavi dicendo una fuori, signorina... fuori dall'onda? Stavi dicendo delle cose terribili fuori dall'onda, mi hanno detto. No, non lo so, poi ho sentito delle cose, io forse ho detto qualcosa, non mi ricordo. Incredibile, se lui non mette ogni giorno, se lui non mette ogni stavate giorno... parlando di politica, quindi insomma mi faceva ridere questa ma cosa. Ma certo, allora Milli, d'abbraccio, conoscete tutti ragazzi, io credo che nella classifica delle persone che hanno fatto i film porno, cioè le porno star italiane, è diciamo nel podio, no? Adesso non so in che ordine, però tutti ci sono nel podio, ci sono, no, ci sono quattro persone più conosciute nel mondo del porno in Italia. Sono uno è Rocco Siffredi, l'altro è Cicciolina, intervistato con dovizia di particolare un sacco di volte. Seconda Cicciolina, anche lei intervistata con dovizia. Moana Pozzi, ma non lo potevamo intervistare per ragioni. E poi no, note. Poi non in ordine ho detto, e poi c'è Milli d'abbraccio, ragazzi, c'è poco da fare. Milli d'abbraccio però sconfina perché non è più il porno, vero Milli? Cioè, un'altra, ormai tu sei un'altra cosa, cioè come possiamo definire? Come possiamo dire? Beh, io prima di fare il porno ho fatto attrice, quindi è ovvio che la differenza sostanziale è quella, che loro hanno fatto solo porno, io invece in realtà sono passata dal cinema al teatro, alla televisione e il porno. E il porno, quindi, diciamo, il porno. Sono un'attrice più completa, insomma. Oggi che fai? Oggi che fai? Diciamolo, dai, diciamo. Mi prendo un po' più di tempi, morbidi, mi godo un po' più la vita, diciamo. Ti godi la vita, sì. Poi vediremo certo. Come. Poi... Senti, Milli, una cosa, ma questa storia di che mi ha fatto scompigliare, ieri ho detto che era la frase del giorno, no? Questa storia della dominazione. Cioè, tu sei adesso una dominatrice. Che vuol dire una dominatrice? No, non è che sono una... Cioè, lo fai per sesso, lo fai per soldi. Vedendo il film, sì. Vedendo il film, cavoli. Io sono lui, cioè nel 50 senso, sfumature di grigio, sì. È certo, perché caratterialmente, come impostazione nella vita, come mentalità, io mi sono riconosciuta più in lui che non in lei. E quindi ho detto, cavolo, vedi, sono una dominatrice, me lo sono dimenticato per anni, sono una dominatrice. E quindi, ma sai, dominatore si è nel lavoro, nella vita, nel sociale, no? Perché quando si sta già nel gruppo, c'è sempre il leader. Il leader chi è? Colui che sa dominare gli altri, che sa comunque attirare l'attenzione, sa convincere il gruppo. Scusa, cioè, ma tu che vieni definita dal Fatto Quotidiano, Milli d'abbraccio, classe 64, 2 anni più di me dunque, ha nel curriculum una lunga carriera nell'hard, da qualche tempo ha spostato la sua attività, questi la edulcorano in questo modo, la sua attività nel mondo dell'escort. Cioè a te ti chiedono, nel tuo lavoro ti chiedono di essere dominatrice o no? Di dominare? No, quasi sempre. Vogliono essere tutti sottomessi, ma io mi rompo anche un po' le palle, perché sai cos'è il problema? Che il dominatore non vuole mai che la preda si lasci dominare facilmente. È molto interessante per il dominatore indurre la persona che si astiene, che dice di no, a poi accedere alla dominazione. Scusa, ma cosa ti chiedono? Qual è una cosa pazzesca che ti chiedono? No, adesso? Ma guarda, adesso per il momento non ancora mi sono specializzata, perché rifiuto sempre le proposte, perché comunque... Ma che proposte ti fanno? Proposte pazzesche? No, di essere dominati, ma sai... tacchi, tacchi, bruciature, massimo... cose oscene di questo tipo, che fa? No, io ancora non mi sono addentrata, però ci sto facendo un pensierino perché vedo che insomma il mondo è pieno di persone che vogliono farsi sottomettere a quel punto, dico perché no. E perché, non, perché non possiamo fare i soldi pure su questo, scusami. Esattamente, specializzarci in questo visto che lo richiedono. Certo. Beh certo, ma scusi, non ho capito, mille d'abbraccio, è la prova provata che il mestiere di escort lo si può fare volontariamente per scelta. Beh. E dovrebbe essere legalizzato. Io dillo anche tu che vuoi pagare le tasse. No, ma non è un fattore di pagare le tasse, è un fattore che allora, se in Italia una cosa è, diciamo, non vietata, perché il discorso è questo, come con l'ARD, no? Sì. L'ARD non è, diciamo, formalmente è vietato, sì. No, non è che ti arrestano, però se ti prendono in un location a fare film porno, ti fanno casino, ti fermano, ti bloccano, eccetera, eccetera. Perché non c'è niente che permette la realizzazione di queste cose, e però non c'è neanche una legge che ti arresta, quindi tutto sul librido. Allora, è la stessa cosa nella prostituzione, dici tu. No, prostituzione, anche il lavoro di, perché prostituzione uno intende già la prostituzione, c'è la prostituta poverina che deve prostituirsi, che c'è il pappone che la mena, quella è il discorso. Vabbè, quella è un'altra che cosa, certo. Fa, cioè, voglio dirti, la escort è un'imprenditrice, non è una prostituta, capisci? Cioè, allora, certo, tu sei un'imprenditrice, si può dire, io sei sono una partita IVA, insomma, sì. Se ce lo permettessero, però io per quanto io sono un'attrice, quindi sono una professionista del mondo dello spettacolo, se mi chiamano a fare un film o spettacolo posso fare fattura, ma così come faccio a fare fattura? Oh, ovviamente è complicato essere legali perché loro non te lo permettono, e quindi che succede? Che tu non hai nessuna tutela, non hai nessun contributo da versare, non puoi avere una pensione, cioè tutto assurdo, però caso strano, però se la finanza decide di andare a controllare i conti di una escort, gli bloccano i soldi. E a te è successo? Ma no, a me no, ma a nome di che cosa? FBAL l'hanno controllato. Perché devono pretendere del denaro? Ma no, ma certo. Assolutamente. Allora, state un pappone? Eh sì, se certo. Un pappone lo dicesse. Brava, così bisogna allora, ragionare, certo. Ma certo, allora, o loro legalizzano le professioniste del sesso? Imprenditrici di sé. Sì. Allora lo Stato dice, ok, io ti do una tutela, allora tu puoi esercitare il tuo appartamento chic e scegli di quello che vuoi, fai la partita IVA versi. Ma tu lo faresti? Tu lo faresti, sì, subito. Certo, sì. Perché lo no? Fa già. Però loro ci devono pure. No, lo faresti, no? La prostituta, la escort, diciamo, la legalizzazione. Ma certo, il discorso di legalizzazione è molto importante. Assolutamente. Senti, ma questa storia degli anni 90 a Milano, che io ho detto la frase del giorno, alla fine degli anni 90 si è presentato un riccone. Com'è la storia? No, raccontamela. No, lui l'ha messa un po' giù così, ma era molto più diabolica la cosa. Questa era, cioè, una come, che voleva che facessi, inquietante. Scusa, che voleva, ma che facessi è, ma non è che cosa voleva fare, era inquietante lui, perché io ho capito che lui era un soggetto che con sì, la sua perversione era vedere le donne che strisciavano davanti ai suoi soldi, siccome lui era un uomo potente, ricchissimo, industriale, la sua libido era quella. Quando io ho capito che era un gioco psicologico più che sessuale, mi sono incazzata. L'hai mandato a fanculo subito, dai. Ma certo, perché se mi avessi detto guarda, vabbè, io per stare con te ti do 10.000, 20.000, ma chiudiamo la pratica. Invece la cosa che lui dice, no, tu devi strisciare per me. Cioè vuoi, allora, la cosa è raccogliere i soldi con la FCA come il simbolo tu, della Fiat. Però lui godeva vedere magari una donna poi famosa, perché sì, all'epoca io ero proprio cioè, nel clou. E tu hai rifiutato, qualche volta hai rifiutato tanti soldi, sì, ti è successo di rifiutare. Certo, questo signore, questo... Quanti l'aveva offerti? Aveva una valigetta piena di soldi, ma se la valigetta... Ma quante volte, una volta che hai rifiutato tanti soldi, quando è stato? Che ne so, 10.000, 20.000 euro, no, perché non ti piaceva la situazione? Tu dimmi, una valigetta 24 ore riempita, quanti soldi ci possono entrare? E che ne so, dipende da che taglio sono. Dipende che anno era. No, 300, 400, 500.000 euro, penso pure di più. Erano tutti ancora fasciati dalla banca, quindi questo era un pazzo, ha preso tutti questi soldi, l'ha buttati per terra per corrompermi, perché lui si divertiva a corrompere l'artista e vederla strisciare. E dico, scusa, ma no, ma non esiste proprio, cioè, non è per me. Beh, un'altra si sarebbe avventata su quei soldi, però probabilmente non avrebbero offerto quei soldi perché non era mille d'abbraccio, questo è il punto. Ma no, perché magari avrebbero ceduto facilmente. Io, senti, come lo vedi, Rocco all'Isola dei Famosi? Ma guarda, Rocco, come lo vedo? L'ho visto la prima puntata, mi sembra la prima. Ma oddio, sta un po' deludendo a livello, perché le aspettative erano di questo uomo che arriva, il ciulador, il chiavador, allora qui... Lo so, troppo morigerato. Invece fisicamente non regge le gare, le competizioni. Ma tu dici, ho letto che secondo te è malato di sesso. Beh, lo dice lui. Secondo me lo è. Lo è proprio, ma a parte che lo dice pure lui, è malato, c'è una forma proprio. Di sesso, sì. Guarda, io quando l'ho conosciuto prima di girare un film con lui, io mi sono un po' spaventato, mi sono un po' schifato, ho detto, Madonna mia, sto ragazzo. Cioè, lui proprio coglio, se c'è un buco dentro un muro, una signora di 90 anni, cioè lui era veramente così. Ecco perché poi lui è riuscito a fare della sua deviazione una professione. È stato intelligente. Capisci? Però veramente Cicciolina ha detto che lui deve baciare la terra dove cammino io, se l'è presa con lui, c'è una guerra pazzesca. Sì, in parte è vero che comunque grazie a Schicchi e a Cicciolina, cioè grazie a noi, perché lui è stato la spalla per anni delle pornostar famose. Lui faceva la Chenard con Mona Pozzi, poi la faceva con Cicciolina, poi con Milena Blatt, e che cavolo, tu accompagni tutte queste star, però poi ti notano, no? Il pubblico ti nota, è ovvio. Vabbè, però poi è stato bravo, poi carisma e tutto, dai, comunque certo, uno. È stato bravo perché ha puntato su se stesso e si era scocciato di prendere 1 milione al giorno, ci guarda, questi prendono miliardi, io prendo 1 milione al giorno, e ha pensato di produrre, di investire su di sé, perché insomma lui è abbastanza narcisista, è un fanatico di sé, insomma è uno che è molto Dorian Gray, che si piace moltissimo, capito? Sì, è però Dorian Gray. Senti, ma tu in tutto con quanti uomini sei stato? Hai fatto un calcolo? Quanti uomini non lo so, per me sono numeri. Numeri, per questo ti dico, quanto sei stato? Sapere, che ne so, 5.000, sei stato con 5.000 uomini? No, mai quanto Rocco, perché sai, lui è malato e poi è maschio. Sai, noi donne siamo più... Ma poi ormai tu vai solo con le donne, ormai, cioè, per cui... No, ormai vado solo con le donne, no, non è che vado solo... Cioè, se ti innamori solo di donne, diciamo. Ti innamori di donne. La mia materia prima sono i maschi, il mio lavoro principale, però mi innamoro, ma sì, perché è più semplice, perché gli tolgo... È più semplice stare con le donne, diciamo. No, più semplice, cioè, gli tolgo questo problema ai maschi, così non mi devono amare nella vita, che sono più complicata che non vivermi solo come il personaggio, che è molto più semplice, il personaggio è più divertente. Nella vita sono una rompicoglioni, ecco, quindi. Va bene, ti chiamiamo presto, un'altra volta. Ciao Emilia, a presto, ciao. Allora ragazzi, dobbiamo chiudere. Edu, provincia di Monza, vai Edu. Ma Mamadou è andato via, Mamadou. Buonasera. C'è ancora Mamadou? Mamadou. Sì. Mamadou, dimmi, dai, veloce. Ok, no. Io ho la conferma oggi che tu proprio sei un imbecille. Perché? Ma sei Mamadou o Edu? Chi sei? Edu, dimmi, Edu. Okay, stasera hanno chiamato Mamadou. Stavo parlando delle vignette di Mohammed tutto. Sì. E un religioso cattolico ti ha chiamato dicendoti di non alimentare il fuoco su questo. Io non devo alimentare nulla. Questo signore qui vive rinchiuso, prigioniero, non può uscire, scortato per avere fatto il suo mestiere, cioè il vignettista. Capito? Chiaro? Si può discutere, ma il fatto che viva rinchiuso, mentre tu, se fai Gesù Cristo, se fai Dio, se fai un capo della religione cattolica raffigurata in qualsiasi modo, non ti succede nulla. Al contrario, se fai Maometto come un cane, ti puniscono per tutta la vita. Chiaro? Ma è mica una libertà. Non è una sfida, che misuri l'Occidente su questo. Va bene, perché sono un imbecille, Edu? Non ho capito perché sono un imbecille. Fammi parlare, oggi hai dato la conferma, come si dice nella parola, con la vabbè, parola. Vabbè, ti chiamo tecnica. Domani, adesso non ho tempo, ciao. Domani 18:30, ciao. Tu non ascolto Cursale, il cazzo. Ascoltami, no? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma Cursale, ma tu sei fuori di testa, se... Radio 24. La passione si sente.